Oggi è il notaio, abbiamo una particolare cura del look, ricordando un noto detto che è meglio avere i pantaloni rotti, ma non procedo perché ovviamente oltre che l'orario non mi appartengono certe realtà indirette, un certo linguaggio. Il linguaggio letterario invece sarà presente grazie alla collaborazione con Libreria Ubic e il buongiorno, già citato Stefano, ora il buongiorno a Silvia Albertazzi. Buongiorno Silvia. Buongiorno a te, buongiorno a tutte e a tutti. Saremo più curati, ma ricordiamoci che il look trasandato a volte, insomma, può avere il suo fascino. Ma sappiamo bene che il nostro notaio è un hipster, per cui fa parte di questa presentazione questo look che per mercoledì 3 aprile avrà un aspetto estetico particolare per accompagnare le nostre presentazioni. Com'è andata la Pasqua, cara Silvia? Poteva andare meglio. Ok, è andata meglio quella dell'anno scorso. Molto, insomma, molto meglio quella dell'anno scorso. Ok, va bene. Dai, ci siamo rifatti un po' con la Pasquetta, ma la Pasqua veramente tutto il giorno in casa con mal di stomaco. Guarda, un po' che del resto, insomma, a volte capitano questi inciampi nelle festività. Sembra fatto apposta. Le aspettano per aggredirci. La letteratura arriva in nostra consolazione con i consigli del Breakfast Club. La playlist musicale è già qui preparata sulla griglia di partenza. Ora iniziamo con la playlist letteraria di cui io, a parte aver dato un rapido sguardo, una sbirciata immediata, non so assolutamente nulla, per cui a te la parola. Non sai assolutamente nulla perché in effetti è un libro che non si vede in giro. Ah. In quanto, però si trova, Non è un libro fantasma. No, nel senso che è un libro di questa casa editrice della Svizzera italiana che ogni tanto ti portano. Ah. Che questa volta, che si chiama Gabriele Capelli Editore. Qualche tempo fa abbiamo fatto un libro molto bello che era La moglie, quello tutto ambientato, sì, a Gaza. Ecco, questo invece si chiama Fucile ed è di una scrittrice sempre svizzera-francese chiamata Odile Cornu. Ora, il titolo chiaramente fa... Una parola sola? Sì, fucile. Ok. Fa immaginare qualcosa, diciamo, di violento. No, non esistono nel... È un librino molto, molto sottile, come vedi, in poco più di 166 pagine, ma inframmezzate da disegni, e poi spiegheremo perché. Quindi alla fine è una lettura molto molto veloce ma molto densa. Dicevo, malgrado il titolo, non è che noi troviamo in questo libro delle violenze esplicite, ma poco alla volta c'è tutto un gioco, se vogliamo, di violenze psicologiche. Ecco, io raramente ho letto un libro che spieghi così bene, senza essere didascalico, che cos'è la violenza di genere e come un uomo può fare violenza a una donna senza dare degli schiaffoni, insomma. Sì. E questa è la storia praticamente di una relazione amorosa, dall'innamoramento alla separazione. Ora, perché si arriva a questa separazione? Quando non ci sono, non so, delle terze persone, non subentrano tradimenti o altro. Sì, c'è un tradimento, ma lascia il tempo che trova. Perché tra due persone a un certo punto viene a sfilacciarsi tutto, se posso dire così, viene a mancare quell'alchimia che sembrava esserci all'inizio ma che forse non c'era. Dunque si tratta di una signora che ha avuto un precedente matrimonio dal quale si suppone divorziata o comunque separata. Quindi è un secondo rapporto. È un secondo rapporto. Lei aveva giurato a se stessa di non volerne più mezza. Si tira degli accidenti per questa seconda scelta. Ha una bambina e lei vive con questa bambina felicemente, diciamo. Incontra quest'uomo che fa il suo stesso mestiere, sono due insegnanti. Lui però è già, in Italia diremmo, di ruolo. Lei invece deve ancora fare dei corsi di formazione e a questo punto così scoprono di stare bene insieme. Da prima si frequentano, Poi a un certo punto lui le propone il matrimonio. Lei resta un po' stupefatta perché non ci pensava, non pensava soprattutto di rimettersi in una situazione come quella matrimoniale, diciamo così, con tutte le responsabilità che comporta. Dopo l'esperienza negativa precedente. Infatti. Invece poi alla fine cede, dice ma sì, va là, stiamo così bene insieme, possiamo anche vivere insieme. E che le cose prendano una piega che sarà un po' particolare, ma che poi è la piega che prendono, cioè, 90 storie su 100, vogliamo dirlo, lo si vede dall'inizio, quando loro, essendo, dice vabbè, noi non siamo più di primo pelo, cioè, quindi non facciamo un matrimonio con grandi feste eccetera, che poi invece la fanno una festa che va avanti fino all'alba, cioè, ma soprattutto invece di scambiarci gli anelli che sono così un simbolo così in qualche modo compromettente, diciamo, ci scambiamo dei braccialetti. Ah, ok. E si scambiano questi braccialetti d'avorio, perché lui è un fanatico dell'Africa, ha fatto esplorazioni in Africa eccetera, e questi braccialetti che a tutta prima portano felicemente, poi poco alla volta dimenticano di mettersi e alla fine rimarranno proprio a prendere la polvere. Sì, il ciappapolvar. Infatti. Ma questo non è niente. La loro storia comincia bene, diciamo. Poi si cominciano a vedere le prime incrinazioni quando appunto lei decide di completare questi corsi di formazione che le servirebbero per avere più punti, diciamo, nelle graduatorie di insegnamento. E lui le dice: ma perché lo fai? Tanto sei già in qualche modo un lavoro ce l'hai, perché ti sottoponi a questo stress? E non l'aiuta per nulla, insomma, non solo non l'aiuta per nulla, non l'appoggia in questo suo, per quanto sia in questo suo disagio, diciamo, che le costano questi corsi, ma le mette continuamente dei bastoni tra le ruote. Ah, la ostacola in qualche modo, in maniera molto sottile, e soprattutto riesce ad attirare dalla sua parte anche la bambina. La bambina che è seccata perché la mamma non c'è alla sera, non è pronta a casa per far da mangiare, e si arriva a una scena abbastanza emblematica in cui la madre arriva a casa e naturalmente è tardi, dovrebbe far da mangiare, il marito dice ma no dai, stasera faccio io una carbonara, e quando sono a tavola la bimba dice allora mi spieghi perché in fin dei conti dobbiamo aspettarti per mangiare. Tanta l'età della bambina che l'ho persa, sì, un attimo. L'età della bambina, più o meno, se 8-9 anni. Bene, vai. La bambina dice scusami, non capisco mamma perché dobbiamo starti a aspettare, tanto fa da mangiare lui, che bisogno c'è di aspettare te? E lei chiaramente si sente proprio messa da parte. E questa è la prima cosa, poi ce ne saranno altre, e tutte piccole situazioni che però fanno dall'una all'altra cresce il senso di violenza psicologica su questa donna, se vogliamo dire, certo, così, no? Episodi che sono gocce che poi, sì, vanno a tortura cinese, la goccia in testa che ti va a lagorare. Esattamente. Piano piano. E ognuno di questi episodi è legato a un oggetto. Ai braccialetti, sì, che hai portato prima in esempio. Allora, i capitoli di questo libro, invece di avere un titolo, sono tutti introdotti da un disegnino dell'oggetto che fa che provoca la deflagrazione in questo caso. Bello, cioè bello, non è bello come per dire, ma è originale l'idea di narrazione, ecco. Infatti, molto si presenta anche bene, diciamo, il libro. Tu hai una pagina tra un capitolo e l'altro, c'è una pagina occupata dal disegno, dallo schizzo di questo oggetto che sarà appunto quello che provoca che aumenta casus belli. Ecco, che aumenta la tensione, magari involontariamente, tra queste due persone. Ecco, veloce ti chiedo una cosa, lui ne è consapevole di questo? Ah, certo che certo sì. Certo che sì. Ok, allora Silvia, io per Edizione Straordinaria, che è arrivata in questo momento dalla redazione di Radio Città Fujiko per una comunicazione, tra l'altro, che sul posto è giunta al Breakfast Club, quindi mandiamo uno stacco musicale, ti chiedo due informazioni prima di portare i contenuti di questa edizione straordinaria. Il libro è in palio? Sì, sì, il libro è in palio, quindi il quiz ci sarà di rientro. Purtroppo stanno sgomberando le scuole Besta con la redazione di Radio Città Fujiko. Ovviamente sapete la presenza e l'impegno sul territorio che abbiamo. Il nostro direttore Alessandro Canella è già in redazione. Tra poco io darò collaborazione, ovviamente, e cederò il microfono alla organizzazione della giornalistica di Radio Città Fujiko. Poi ovviamente riprenderemo il Voltiamo Pagina, visto l'importanza di questo gravissimo episodio. Allora Silvia, intanto ne approfittiamo per lanciare il primo brano in playlist. Sì, tutti i brani in playlist parlano appunto di storie che finiscono, di come può finire una storia malamente, diciamo. Primo Guccini, sì. Si incontrano nel giorno, mentre la città d'attorno sembra nuova. Lui e lei riscoprono le cose che credevano perdute nella noia. Tutto il piacere di sentirsi chiedere la propria breve vita, la frase conosciuta, la storia già narrata. Lui e lei a leggere i poeti che nessuno al mondo poi leggerà mai. Sospiri, lunghe pause di pensieri, mentre il suono del silenzio li accompagna. Lui e lei si incontrano d'accordo nel consueto vecchio posto d'ogni giorno. Lui e lei ritrovano ogni cosa che già il tempo ha ricoperto con la noia. Ed ogni giorno ormai la frase risaputa, la propria morta. Sì, purtroppo mi aspettavo questo intervento, seguendo il caso di cronaca cittadina con la realtà delle scuole Besta. Abbiamo il nostro direttore in sede, al quale do il buongiorno. Buongiorno Alessandro. Buongiorno William, buongiorno ascoltatrici e ascoltatori. Che sta succedendo? Allora, questa mattina al Parco Don Bosco, dove ormai da molto tempo c'è il presidio di il Comitato Besta, composto da genitori, cittadini, insegnanti delle scuole, che si oppone al progetto del Comune di Bologna di costruire una scuola nuova di fianco a quella esistente. Non sono contrari all'ammodernamento, ovviamente, delle scuole esistenti. Loro dicono si potrebbero ristrutturare senza consumare suolo e senza abbattere alberi qui nel Parco Don Bosco, che è uno dei piccolissimi polmoni verdi, uno dei pochissimi in questa zona. Siamo in zona fiera, in zona regione, Viale Aldo Moro per intenderci. Questa mattina, come si aspettavano gli attivisti e le attiviste del comitato, è arrivata la polizia in assetto antisommossa, polizia e carabinieri, per cercare di garantire l'avvio del cantiere di questo, appunto, di questa costruzione, di questa nuova scuola. Questo è arrivato anche dopo una sentenza del Tribunale Civile a cui si era rivolto il comitato, citando il comune per danno ambientale. È una sentenza della settimana scorsa, in realtà è una non sentenza, nel senso che il giudice ha detto che gli appellanti dovevano rivolgersi al TAR e non al Tribunale Civile, quindi non è entrato nel merito dell'avvertenza. In questo momento ci sono dispiegamenti di forze dell'ordine a tutte le estremità, diciamo, del parco Don Bosco. Il comitato insieme ai solidali chiamati a raccolta, perché come dicevo si aspettavano un intervento, in questo momento sono in riunione e stanno raccontando la prima interlocuzione avuta con gli agenti. In particolare per adesso la situazione è tranquilla. Cercherà il comitato Besta, lo ha detto insomma già più volte, di opporsi con resistenza passiva e pacifica all'avvio del cantiere. Bisogna vedere se saranno altrettanto pacifici gli agenti, esatto, delle forze dell'ordine, o tenteranno di portarli via di peso, come abbiamo visto anche in altre occasioni. Però al momento siamo lontani da quella fase lì. La polizia si è presentata alle 8 del mattino, mentre il presidio qua si è raggruppato intorno alle 5. Sì, ho ricevuto notizia da un'ascoltatrice in redazione, ti avrei chiamato mentre tu mi stavi scrivendo, fra l'altro, per cui c'è una contemporanea di informazione, mi rendo conto. Quindi la situazione attuale è una stasi, seppur gravemente preoccupante. Sì, nel senso che appunto ci sono le camionette, ci sono gli agenti in tenuta antisommossa, però non sono ancora entrati nel parco, sono ai margini, e al centro del parco c'è il presidio permanente, appunto, del comitato Besta, che c'è da molto tempo, tra cui anche le casette costruite, sì, sugli alberi, per appunto come forma di resistenza. Ovviamente noi seguiremo l'evolversi della situazione. Se ci sono come dire, cose da rilevare, il Breakfast Club, lo spazio è a disposizione in qualsiasi momento, per cui io ti ringrazio anzi di questa comunicazione, e resto ovviamente per ascoltatrici e ascoltatori del Breakfast Club di Radio Città Fujiko pronto in caso di sviluppi. Io ti ringrazio tantissimo, ti auguro una buona giornata e ci rivedremo magari più avanti in redazione, ecco. Grazie a te, grazie a chi ci ascolta, ciao. Siamo con un occhio di attenzione, il Breakfast Club si mette a disposizione certamente per questa grave situazione di cronaca per quanto riguarda le scuole Besta, che già seguiamo con la nostra redazione giornalistica. Grazie ad Alessandro Canella. Sono le 8:22 minuti, dopo lo stacco musicale portato da Silvia Albertazzi riprendiamo la presentazione letteraria. Sei stata anche protagonista di un'edizione straordinaria, Silvia, mi scusi. accuso innanzitutto. No, però, niente, sai che mio fratello ha frequentato le scuole BESTA. Sì, che tra l'altro sono inserite in questo contesto molto particolare e insomma le decisioni prese sono ampiamente criticabili e discutibili. Cioè lui vedremo. Proprio le ha frequentate quando erano appena aperte. Ecco. Le ha inaugurate. Un'inaugurazione, pensa ai percorsi arrivati ai giorni d'oggi, ma seguiremo con attenzione tutto ciò. Procediamo, allora riprendo velocemente con una sintesi. Coppia, lei al secondo matrimonio, un matrimonio che non si aspettava, il primo non va benissimo, ovviamente. Del primo non sappiamo nulla praticamente, sappiamo se non che lei è rimasta delusa e aveva deciso basta, io con esperienze matrimoniali, ma direi anche esperienze proprio sentimentali, non ne voglio più. Il primo matrimonio porta una bambina. Sì, una bimba. Sugli 8-9 anni che diventa una coprotagonista di questo scontro, seppur non uno scontro come ci possiamo immaginare di violenza, ma di episodi. Anche perché, era quello che avrei voluto dire quando siamo stati interrotti, inizialmente lui riesce a portare la bambina dalla sua parte, poi dopo un po' sta bambina gli diventa antipatica, per cui non fa altro che sottolineare con la donna tutte le cose che la bambina che non apprezza nella bambina, quindi e assumere un comportamento sempre meno simpatico anche nei confronti della bimba, per cui invece di crearsi, diciamo così, una famiglia, si creano sempre delle divisioni per diversi motivi, e ovviamente è colpa tua se la bambina è così, esattamente, dice alla moglie, esattamente. Oppure devono andare da qualche parte con la bambina e lui chiaramente mette su il broncio perché non vuole tra i piedi questa bambina, oppure la bambina è troppo grassa, mangia troppo. Ah, ogni cosa poi diventa motivo di scontro. Ecco, il titolo Fucile, in effetti, ecco. Non vi sono riferimenti, no. In uno scontro, come ha già precisato Silvia. C'è però solo un episodio che potrebbe essere violento, che tra l'altro è riportato anche sul risvolto di copertina, per cui non è che faccio dello spoiler, in cui lui si arrabbia e lancia una paletta, una pala contro la moglie, ma non la prende. Meno male. E questo è l'unico episodio veramente di violenza fisica. Di violenza psicologica ce n'è tanta invece. E il bello, diciamo, di questo libro è che è scritto in maniera molto fredda, molto impersonale, per distaccata. No, tanto per cominciare non sappiamo i nomi di queste persone. Per cui in questo modo lo vivi ancora di più, insomma diventa una situazione, sembra quasi un apologo impersonale, appunto come dicevo prima, un po' come poi tutte le storie, come cantava prima Guccini, si logorano anche per noia, se vogliamo, per troppo conoscersi, per non volersi adattare un po' alle esigenze dell'altro e via discorrendo. Ed i motivi poi sfociano in queste situazioni. Il libro è in palio, il titolo è Fucile, la casa editrice svizzera, poco diffusa in Italia, quindi grazie Silvia che è già il secondo contenuto che porti per questa casa editrice, che tra l'altro mi affascina tantissimo, l'ho conosciuta grazie a te. Si tratta della Gabriele Cappelli editore. Ok, lanciamo il quiz e in seguito il brano pubblicità rientriamo e dichiariamo i vincitori. Allora, il quiz è legato al brano che ascoltiamo adesso. Ascolteremo una canzone francese nella versione italiana di Gino Paoli. Io voglio sapere chi è l'autore di questa canzone, un famoso chansonnier francese. Chi è il famoso chansonnier francese che è autore di questa canzone, però in questo caso interpretata da Gino Paoli? Aspettiamo la risposta per avere Fucile. 333-180-9494, libri a colazione con il Voltiamo Pagina. Ah, ma se non vi faccio sentire la canzone come facciamo? A tra poco! Col tempo sai, col tempo tutto se ne va, non ricordi più i visi, non ricordi le voci, quando il cuore ormai è stanco e non vuol più cercare, ti lascia andare e forse è meglio così. Col tempo sai, col tempo tutto se ne va. l'altra che adoravi, che cercavi nel buio, l'altra che indovinavi in un batter di ciglia, tra le frasi e le righe e il fondotinta di promesse truccate in un raggio di luna. Col tempo, sai, tutto scompare. Col tempo, sai, col tempo tutto se ne va. Il ricordo più dolce ha una maschera triste tra i tuoi sogni perduti, quando il sabato sera la tenerezza rimane senza compagnia. Col tempo, sai, col tempo tutto se ne va. L'altra a cui tu credevi anche a un colpo di tosse, l'altra che ricoprivi di gioielli e di vento ed avresti impegnato anche l'anima al monte, a cui ti trascinavi alla pari di un cane. Col tempo, sai, tutto va bene. Col tempo, sai, col tempo tutto se ne va. Non ricordi più il fuoco, non ricordi le voci della gente di casa che ti diceva piano non venir tardi e poi non prender freddo. Col tempo, sai, col tempo tutto se ne va e ti senti la schiena di un cavallo sfiancato e ti senti gelato in un letto non tuo, forse solo, ma in fondo in pace col mondo, e ti senti fregato dai tuoi anni perduti. Allora, finalmente, col tempo tu non ami più. Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù. Cercavo in te la tenerezza che non ho, la comprensione che non so trovare in questo mondo stupido. Quella persona non sei più, quella persona non sei tu. Finisce qua, chi se ne va, che male fa. Io trascino negli occhi dei torrenti d'acqua chiara, dove io berrò. Io cerco boschi per me e vallate col sole più caldo di te. Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù. E quando andrò devi sorridermi se puoi, non sarà facile ma sai, si muore un po' per poter vivere. Arrivederci amore, ciao, le nubi sono già più in là. Finisce qua, chi se ne va, che male fa. Mi è venuta un po' di malinconia con queste canzoni, però una più bella dell'altra. Allora, in particolare l'interpretazione di Gino Paoli, sì, con il brano di Leo Ferré, così ho già dato risposta esatta. Canzone di una bellezza. Mi ripeti il titolo? Della canzone? Sì. Col tempo. Arrivederci amore, ciao. Le nubi sono già più in là. Arrivederci amore, ciao. Le nubi sono già più in là. E avete dei bei mobiloni di CD anche voi, sì, di grande qualità. No, complimentoni. Ti dicevo prima che la canzone di Ferré c'era anche in questo disco di cover di Battiato. Ah. Però io le ho ascoltate tutte e due. Hai preferito? No, quella di Gino Paoli è molto più sofferta. È bella anche quella di Battiato, però. Guardo le nuvole lassù, amore c'è. Insieme a te non ci sto più. Guardo le nuvole lassù, amore c'è. Insieme a te non ci sto più. Anche questa, Insieme a te non ci sto più, di Battiato, è un'altra che va a corredare la tua playlist. Insomma. Però non è, cioè, tutti la conosciamo nella versione, sì, di Caterina Caselli, chiaramente. Sì, sì. E che fortuna, scrive Luigi, noi che siamo diventati grandi con questi testi. Oggi i ragazzi hanno la trap, mi dispiace per loro. Buongiorno Luigi, però Luigi non hai dato la risposta esatta. Beh, ok, certamente la tua cultura non è intaccata, ma non è Jacques Brel l'autore della canzone interpretata da Gino Paoli. Oh, è arrivato un messaggio lunghissimo. Ciao William, ciao Silvia, grazie ai vostri preziosi consigli. Ho letto L'estate in cui mia madre ebbe gli occhi verdi. La parola che secondo me descrive al meglio questo libro è potente. Sono potenti l'odio e il disprezzo che Alex, il protagonista, comunica già dalle prime righe nei confronti di questa madre che gli ha rovinato la vita. La donna malata terminale chiede al figlio di rinunciare alle vacanze estive con i suoi amici e di trascorrere con lei 3 mesi, gli ultimi, in uno splendido paesino francese, ed in cambio avrà tutto ciò che desidera. Lui accetta credendo che questo lo risarcirà dal dolore che gli ha provocato. In questo periodo, quell'odio iniziale lascia il posto alla cura, alla comprensione, all'amore, al perdono, e intanto si avverte progressivamente di capitolo in capitolo come un crescendo rossiniano. La donna, gli errori che passano in secondo piano, e Alexi comincia a vedere la madre sotto un'altra luce. Si viene completamente travolti dagli ultimi istanti della relazione madre e figlio. Ti commuovi di fronte alla possibilità che è sempre possibile cambiare e perdonare. Grazie Simona. Grazie a te. Grazie. Simona. Adesso raccolgo tutte le recensioni, eh? Comunque avremo modo di portarle e contenerle, insomma, in un Voltiamo Pagina speciale. Grazie Simona e buona giornata. Allora, intanto il premio lo vince Paola Turris, prontissima ormai anche lei campionessa del Voltiamo Pagina. Però volevo ringraziare Maria Carla, che ha dato risposta esatta. Volevo ringraziare Loris, che ha detto Charles Aznavour. No, risposta errata, però grazie per aver giocato con il Voltiamo Pagina. Arriva un altro messaggio, mi pare risposta esatta in questo caso, ma un pochettino tardi. La canzone originale di Leo Ferré, risposta esatta di Marco. Un'altra Paola, che è Paola Bianco, ha risposto esattamente, ma Paola T, abbiamo Paola T e Paola B, sembrano rapper, no, sono ascoltatrici del Voltiamo Pagina. Paola T ha vinto il lavoro presentato da Silvia e lo può ritirare da domani alla libreria Ubic di Via Ernerio 27 a Bologna. Sarò veloce per la mia presentazione. Il canto del profeta. Intanto io non seguo i premi, questo è mea culpa, seguo solo il Pellegrino, ma questo direi che insomma non si può, ma neanche nominare vicino al Booker Prize. Stiamo parlando del vincitore del Booker Prize, che è Paul Lynch, autore che già abbiamo conosciuto al Volcano. Sì, abbiamo presentato un libro chiamato Oltremare. Sì. Lui è un autore nato nel 77, è irlandese, è considerato tra i migliori scrittori irlandesi, tra l'altro terra fertile per la letteratura. Le sue opere precedenti, tutte pubblicate da 66 and Second, seppur... Bravissimo, bravissimo. Iniziamo con la narrazione. Beh, iniziamo con le emozioni invece piuttosto che la narrazione. Intanto lui scrive benissimo, lui è ben capace, talentuoso, e ricordo che scrivere, capisco che io non so nemmeno scrivere il mio indirizzo, le mie generalità, però ogni volta che mi trovo di fronte a talenti letterari dico: caspita, che fortuna, che dono di natura, che talento saper scrivere, e lui ne è dotato assolutamente. L'emozione è quella del timore che stiamo vivendo di una non consapevolezza di quello che sta succedendo, perché la situazione, seppur in Irlanda, in una realtà distopica, è assolutamente con riferimenti comparabili a quello che appunto sta portando la società odierna. Questo lento degradarsi, questo lento cadere sempre in una società più restrittiva, con la mancanza totale di critica da parte di chi subisce questo decadere di diritti. Inizia così, con una serata umida a Dublino, quando la biologa Ellie Stack sente bussare alla porta. In piedi davanti a questo ingresso trova due uomini, chiaramente sono della polizia segreta, sono venuti a cercare suo marito. Non sono arrabbiati, anzi non dico che la tranquillizzano, ma insomma diciamo che non arrivano in maniera cruenta. Però ricorda che la vice segretaria del sindacato insegnanti, impegnata in queste realtà di lotta, è al contempo vicina al coprotagonista Larry Stock, anche lui in maniera più carismatica e più importante, più attivo all'interno di questo sindacato. Ripetono: non c'è niente di preoccuparsi, dicono gli agenti in tono cortese, ma una volta che se ne sono andati, la descrizione, la preoccupazione resta all'interno dell'appartamento. Qualche tempo prima il partito di destra, che già il nome inquieta anche noi, National Alliance, cioè Alleanza Nazionale, è salito al governo e ha approvato delle leggi che gli attribuiscono poteri d'emergenza. Poco dopo Larry viene come inghiottito in questo vortice, in questo labirinto burocratico dello Stato, e la vita della moglie Alice e dei suoi quattro figli sprofonda nella paura e anche nel caos. Tutta l'Irlanda stessa scivola verso un'autocrazia risucchiata in un buco nero che, anche quando il regime sarà rovesciato, continuerà a crescere. Si cade dalla padella alla brace e in questa crescita si consumerà un paese per decenni. Le scuole, i negozi chiudono, la crisi, gli scaffali dei supermercati diventano improvvisamente vuoti, i cittadini perdono il lavoro e poi ovviamente anche i diritti. Per strada scoppia la violenza, finché gli irlandesi non resta altra scelta che scappare da questo caos come profughi. Il lavoro, il canto del profeta, già dal titolo. Paul Lynch ha vinto il Booker Prize, ovviamente un prestigioso premio che vede questo talentuoso scrittore con una tematica, se vogliamo, distopica, ma con attinenze molto inquietanti alla realtà. La nostra playlist però procede sempre con un brano legato al romanzo precedente. Presentazione precedente. Sì. Hai portato nuovamente i Beatles e questo, sì, vabbè, mi riempie il cuore di gioia. Happiness is a warm gun. E che potrebbe essere anche attinente anche al tuo libro che ho presentato adesso. Oh yeah. She's well acquainted with the touch of the velvet hand, like a lizard on a window pane. The man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots, with his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust. nights that I'm left uptown. I need a fix, cause I'm gone down. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Come di consueto negli ultimi minuti il mio quiz. Allora, Irlanda, Eire, non è un acronimo intanto, ma è una parola che deriva dal mito di un'antica lingua. Qual è questa antica lingua? Qual è l'etimo, insomma, più che l'etimo, l'origine della parola Eire? È riferita a un'antica divinità di una cultura antica da cui ha origine l'Irlanda ed è chiaramente una lingua scomparsa, se non che in alcuni riferimenti etimologici per quanto riguarda la il linguaggio anche irlandese, come la stessa parola. Se mi dite qual è questa lingua, il canto del profeta Paul Lynch, vincitore del Booker Prize, sarà vostro. Tra l'altro è proprio l'etimo di Eire. Abbiamo veramente un illuminato in redazione, il nostro Lorenzo, che è venuto a salutare prima. Sì? E giustamente a me piacerebbe dare il libro a lui. Veramente uno che è portato per queste cose e ha scritto è la lingua vichinga. Ecco, così ci rendiamo conto anche di alcuni collaboratori, hai capito? Risposta esatta per Dino è il gaelico e la origine è dovuta al nome di una divinità, una dea nella lingua gaelica poi trasformata nel nome attuale, Irlanda Eire. Volevo però chi ti qualcosa. Dice che i vichinghi non parlassero una lingua gaelica? Chi lo sa, magari lui è più informato di me su questo e tra poco con Lorenzo faremo conversazione in gaelico con... Marco per un pelino ha risposto esattamente ma non è arrivato. Grazie Marco, grazie Dino. Dino è il vincitore del canto del profeta. Ovviamente vi do appuntamento a mercoledì prossimo, anzi vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo con il Voltiamo Pagina, libri a colazione sui 103.1, a breve l'Edipè Enciclopedico, Liberi Dentro, la rassegna stampa di Radio Città Fujiko, che è appunto in contatto con quello che sta succedendo alle scuole Besta, con inviato il direttore dell'emittente Alessandro Canella. In diretta avremo Alfredo Pasquali e Piero Di Domenico per la rassegna stampa. Il Rock Live di Nevio poi ci accompagnerà fino alle 12.30. Questa è la mattinata dei 103.1. Domani andiamo in mostra e ora andiamo a dar bella mostra di noi con il video della settimana. Ok Silvia? Sì, senza dubbio. Ricordiamo sempre che il video è sulla pagina di radiocittafugico.it, sia sulla pagina dei social che sul sito. E in fondo c'è la playlist. Bene, appuntamento a domani con la prima colazione in diretta. Con un caloroso abbraccio vi auguro un buon mercoledì. Ciao a tutte, ciao a tutti da Silvia e William. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao.